sposi vinti o convinti. Secondo certi studiosi, causa l'inquinamento, ogni anno si estinguono alcune specie di animali. Vi è un'altra specie che è in via di estinzione, causa un altro tipo di inquinamento, e cioè il coniuge fedele. Secondo certe statistiche, un matrimonio su tre, e addirittura uno su due, termina o col divorzio o con la separazione. Sentì una ragazza raccontare ad una sua amica che si era sposata? Nello stesso periodo di altre tre sue coetanee. Tutte e tre le mie amiche si sono separate, disse con un tono di sconforto. Ora aspetto che prima o poi tocchi anche a me. Purtroppo è una triste realtà. La mia domanda, che molto probabilmente vi ponete anche voi, è perché si sono separate queste coppie? Erano forse false quando durante l'innamoramento hanno dichiarato di amarsi? Quando hanno testimoniato davanti ad un'autorità, parenti e amici, di voler restare sposati e fedeli finché morte non ci separi? Io non lo credo nel modo più assoluto, anche perché se è un momento in cui si è sinceri e quando si è innamorati. Perché allora due sposi così innamorati arrivano a separarsi? Causa le difficoltà nella vita matrimoniale? Non lo credo, anche perché tutti i coniugi hanno i loro problemi causati da una convivenza sconosciuta. Eppure non tutte le coppie si dividono. Non tutte le coppie divorziano. Perché allora una coppia di sposi li divide? Le ragioni sono tante, anzi tantissime, ma credo che ci sia una motivazione comune a tutte le coppie che si separano. Gli sposi non erano più convi Nuovo Testamento primo di essere fatti l'uno per l'altro. Per convinti mi riferisco a quel termine che il vocabolario definisce ferma certezza morale intellettuale, che si acquista superando dubbi e ragioni contrastanti. Cioè sono sicuro che questo sia il mio coniuge e quello giusto nonostante tutto. Sì, nonostante Nuovo Testamento e tutto. Ma io sono un coniuge convinto, mi direte. Eppure se potessi, vorrei separarmi e divorziare, se possibile. Comprendo la risposta, ma la domanda susseguente è: sei convinto o sei vi Nuovo Testamento o? Cosa intendi per vinto? Mi risponderai. Ebbene, sei vinto quando sei vittima delle circostanze, quando dipendi dalle circostanze, quando sei frustrato dalle circostanze, quando intendi restare sposato finché noia non ci separi, quando un coniuge si trova sposato con queste motivazioni è vinto dalle circostanze, dalla vita che scorre, inesorabile. Qualcuno mi chiederà: cosa intendi per vittima delle circostanze? Sei vittima o frustrato dalle circostanze? Quando vorresti fare una cosa e non la puoi fare? O quando vorresti non fare una cosa e sei costretto a farla? Tu vorresti separarti e non lo fai perché ti vergogni di farlo, perché ci sono dei figli di mezzo, perché non sai come fare, perché non sai dove andare, perché non ti conviene separarti. Allora, a queste condizioni, sei un vinto, non un convinto. Vuoi sapere quando sei convinto di aver sposato la persona giusta? Sei convinto quando sei in grado di operare in libertà. Sei convinto quando sei sposato e ti piace esserlo. Sei convinto quando desideri stare con il coniuge che hai. Sei un coniuge convinto quando desideri esprimere la tua sessualità senza riserve solo con il tuo coniuge. Sei convinto quando accetti anche i difetti del tuo coniuge e li trovi costruttivi. Sei convinto quando non desideri cambiare la personalità del tuo coniuge. Sei un coniuge convinto quando i contrasti di coppia sono sfide per migliorare il tuo rapporto e non scuse per litigare. E infine sei solo con queste ferme convinzioni. Il matrimonio è un vero matrimonio, è una vita vissuta in due. Sembra banale, e forse lo è. Ma matrimonio significa soprattutto partecipazione, condivisione, unione di ogni singolo aspetto della vita. Ho compreso in modo particolare quanto sia facile essere uniti davanti alle autorità religiose e civili e non con il proprio coniuge quando un giorno ho preso in mano una mia vecchia Bibbia, una Bibbia che avevo comprato subito dopo aver consacrato la mia vita a Cristo. In questa Bibbia, nelle prime pagine, vi è un'agenda dove si possono annotare i fatti importanti della propria vita, come i matrimoni o i decessi. Così, nella pagina dedicata al matrimonio, scrissi il mio nome, seguito da un punto interrogativo. Dopo pochi anni mi sposai e di tanto in tanto prendevo in mano questa vecchia Bibbia, notavo lo scritto incompleto, ma non mi preoccupavo di aggiungere il nome di mia moglie, finché un giorno notai, nel riprenderla in mano, che mia moglie aggiunse il suo nome. Rimasi di stucco. Perché non lo avevo fatto io? Perché non mi preoccupai di completare quello scritto incompleto? Qual era stata la ragione della mia mancanza o noncuranza? Difficile dirlo. Era forse perché mia moglie non rappresentava la donna dei miei sogni? Può darsi. Tante ragioni sono possibili, ma di fatto io sono sposato con mia moglie e alla quale ho dichiarato che avrei vissuto con lei nella buona e nella cattiva sorte. Pensare o scivolare in un divorzio solo perché vi è incompatibilità di carattere è uno degli errori che si paga caro, e le esperienze altrui lo dimostrano. Poiché sono un cristiano, mi è difficile prendere in esame un argomento e non parlare di Cristo, il mio Salvatore. E grazie a Lui che sono in armonia con Dio, con la vita, e vivo bene il mio matrimonio. Spesso do a mia moglie un bacio di riconoscenza, anche se avrei delle ragioni per lamentarmi, perché il matrimonio, più della stessa vita, mi ha insegnato ad essere riconoscente e vedere il lato positivo in ogni cosa. E proprio perché ho un cuore riconoscente, proprio perché riconosco che questa riconoscenza viene da Dio, io non mi vergogno di parlare del mio Salvatore e di condurre delle anime a Cristo. La stessa domanda che ci siamo posti in merito al matrimonio, e cioè se siamo degli sposi vinti o convinti, è possibile farla anche in merito alla fede. Io sono un vinto o un convinto da Cristo? Cioè la mia fede in Cristo è il risultato di una convinzione o di inevitabili circostanze? Non è una domanda retorica, perché in qualche modo tutti sono a conoscenza del messaggio evangelico e Cristo è in qualche modo conosciuto. Proprio perché Cristo, Gesù è conosciuto, ci e chi è convinto di credere in Cristo ma si inganna, ci e chi è convinto di essere in regola con Dio solo perché ha fede, ci e chi è convinto di essere un cristiano e non lo è, ci e chi appartiene alla religione cattolica o protestante e pensa di essere per questo un cristiano, ma la sola convinzione non basta per essere nel giusto. Quante volte siamo stati convinti di una cosa e poi ci siamo accorti che sbagliavamo? L'11 settembre alcuni musulmani convinti di fare del bene hanno pilotato degli aerei contro le Torri Gemelle, assassinando migliaia di persone, perché per alcuni di loro la jihad è dell'Islam e una fede senza jihad non è l'Islam. Ma queste persone si sbagliano. In India sono convinti che gli animali siano sacri e per questo vi sono alcuni che vivono solo per dare da mangiare ai topi, mentre ci sono migliaia di persone che muoiono di fame. Se essere convinti fosse una certezza di conoscere e praticare la verità, sarei il primo a cercare di essere convinto in ogni cosa. Ma la verità è una persona, Cristo Gesù, e per questo cerco ogni giorno di conoscerlo sempre di più. E più si conosce Cristo, più si è da Lui non solo convinti, ma soprattutto vinti. La persona di Gesù è unica in tutti i sensi, anche perché nessuno può realmente incontrarlo e rimanere la stessa persona di prima. Vi sono dei religiosi come dei cattolici e protestanti che affermano di avere avuto un'esperienza personale con Cristo, ma questi cattolici continuano a ritenere il Papa il vicario di Cristo e i protestanti a ritenere la Bibbia un libro che contiene la parola di Dio. Due posizioni inconciliabili per chi ha creduto, accettato e confessato che Cristo è il suo Papa e la verità. Si pone una inevitabile domanda: come posso sapere se sono un vinto dalle circostanze o un convinto da Cristo? Sono vinto dalle circostanze quando faccio il cristiano e non lo sono. Sono vinto dalle circostanze quando sono costretto a frequentare la Chiesa. Sono vinto dalle circostanze quando prego formalmente perché lo fanno gli altri. Sono vinto dalle circostanze quando mi vergogno di Cristo. Sono invece convinto da Cristo quando l'ho accettato come mio Salvatore e Signore, quando scelgo liberamente di regolare la mia vita secondo la sua volontà, quando faccio una cosa non perché la fanno tutti, ma perché lo vuole Cristo, quando ho il coraggio di andare controcorrente per amor suo, quando accetto con gioia le sofferenze e le privazioni causa la mia fede. quando ho il coraggio di parlare di Cristo agli altri. Solo così sarò convinto non solo da Cristo, ma anche di Cristo. E con questa convinzione metto la mia vita liberamente al servizio di Cristo, perché Lui possa essere il mio padrone. L'Apostolo Paolo si è espresso in questa maniera. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque, tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più dead, ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 2 Corinzi 5, 14, 17. Il fatto che Cristo sia morto al nostro posto in croce aveva vinto Paolo al punto che era costretto, come risposta d'amore, a vivere per lui. Questo è il cristianesimo. È l'essere una nuova creatura. È l'essere non solo convinti da Cristo, ma anche essere vinti da Lui. Siamo allora degli esseri vinti o convinti? Se siamo degli sposi convinti, siamo dei coniugi liberi, felici, soddisfatti per tutta la vita. Se siamo degli uomini non solo convinti da Cristo e di Cristo, ma anche vinti da Lui, siamo degli esseri felici per tutta l'eternità. A noi non resta che la scelta. Novembre 2005, Ellero.